Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiamo subito da una notizia appena battuta dalle agenzie che va, tra virgolette, a spiegare il crollo che sta subendo Fiat Chrysler in borsa, meno 18% adesso. Allora, l'Agenzia per la Protezione Ambientale Americana ha notificato a Fiat Chrysler Automobiles violazioni del Clear Air Act, ossia quello sulle norme delle emissioni. Ricorderete il Dieselgate che riguardò la Volkswagen. Dicevo, violazione su circa 104.000 veicoli. Lo afferma l'EPA, perché, che è appunto l'Agenzia per la Protezione Ambientale statunitense, sottolineando che Fiat Chrysler potrebbe incorrere in sanzioni civili. I veicoli sui quali sarebbe stato montato il software che consentirebbe anche in questo caso, come nel caso Volkswagen, di avere emissioni diesel più alte degli standard e quindi quanto permesso, sarebbero il Grand Cherokee e il Dodge Ram. Il titolo sta pigliando obiettivamente una mazzata in borsa, meno 18,50, e segue la controllante Exor, meno 11,10%. Questa è la notizia principale, non solo a livello finanziario ma anche a livello borsistico. Per il resto Mediaset perde il 4,80, Leonardo il 3,90, BPM meno 3,20 e Unipolsai meno 3% come banca mediolano. Ma oggi la giornata era già negativa, ma in questo momento Milano perde il 2% contro Parigi meno 0,60, Francoforte meno 1,30 e Londra invariata. Dicevo, oltre a Saipem meno 2,70 è come Azimut, Ferrari meno 2,50 come Unipol e Case New Holland. Per quello che riguarda i titoli che guadagnano c'è solo UbiBanca più 8,76%. Di banche, anche di banche parleremo oggi, perché via libera, è arrivato via libera dall'assemblea dei soci di Unicredit all'aumento di capitale da 13 miliardi di euro, presente nell'aumento del voto il 52% del capitale sociale, e tutti, praticamente il 99,6%, hanno votato a favore. L'aumento di capitale partirà quindi il 13 febbraio e si tratterà dell'aumento di capitale più grande mai realizzato in Italia e tra i maggiori a livello europeo. Solo due altre banche, HSBC e Royal Bank of Scotland, hanno varato negli anni passati operazioni da un ammontare così grande. I nuovi titoli, ne parleremo subito, verranno offerti a un prezzo che dovrebbe essere inferiore del 30-40% ai valori attuali, quindi intorno a 1,2-1,3 euro per azione. Per quello che riguarda l'andamento di Fiat Chrysler, mi chiedete, guardate, è ancora meno 19% adesso, ma aspettiamo che chiuda la borsa a questo punto. Certo che è una definire la doccia fredda è quasi, anzi è un eufemismo a questo punto. Mentre dicevo, al di là di Unicredit, parleremo anche di UBI che va ad aggiudicarsi le tre delle quattro banche ormai celebri. UBI ha infatti ufficializzato in una nota la delibera di un'offerta vincolante a un euro al Fondo Nazionale di Risoluzione, valida fino al 18 gennaio, per tre delle quattro good bank, quindi Nuova Banca delle Marche, quella dell'Etruria e Cari Chieti, perché Cari Ferrara, come abbiamo spiegato, dovrebbe andare a Biper. Un euro è l'offerta simbolica perché l'offerta prevede la cessione pro soluto da parte dei tre istituti di 2 miliardi e 200 milioni di sofferenze lorde e altro mezzo miliardo di sofferenze probabili. UBI farà un aumento di capitale da 400 milioni di euro, con cui ha già siglato un accordo di garanzia con Credit Suisse e Morgan Stanley. UBI stima di avere un aumento della quota di mercato italiano, mercato bancario italiano, di oltre l'1% con queste acquisizioni. Ne parleremo ancora, parleremo anche, se ce la facciamo perché la giornata si sta un po' rivoluzionando, di Alitalia. Ci sono varie dichiarazioni oggi, il ministro Calenda ma anche il presidente dell'Italia Montezemolo, e di una buona notizia, sono due le buone notizie oggi. La prima riguarda la nostra produzione industriale a novembre. è salita dello 0,7% su ottobre, ma soprattutto del 3,2% rispetto a novembre 2015. E quindi nei primi 11 mesi la produzione industriale ha fatto un più 1,3%, crescita che riguarda praticamente tutti i settori, i beni intermedi, i beni strumentali, l'energia, solo i beni di consumo ancora con il segno meno. Dicevo, questa è la buona notizia. L'altra riguarda un settore particolare, ma insomma, il mondo del vino lo seguiamo da sempre con attenzione, uno dei settori che non ha mai conosciuto crisi neanche nel 2008. Con l'entrata in vigore del test unico del vino, i prodotti della vite, i territori vinicoli, oltre che il vino, verranno salvaguardati quale parte del patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico italiano, lo prevede l'articolo 1 della disciplina organica. E anche le incombenze burocratiche vengono rivoluzionate, nel senso che si spera di arrivare a un dimezzamento dei tempi dedicati alla burocrazia per il mondo vitivinicolo. Si taglia del 50% il tempo dedicato alla burocrazia, con 100 giornate di lavoro che ogni impresa è costretta a dedicare per soddisfare le 4.000 pagine di normativa del settore. 4.000. Sappiamo benissimo che non è solo il settore vitivinicolo avere 100 giornate lavorative da dedicare, ma insomma 4.000 pagine di normativa. E dicevo, il testo unico punta a questo obiettivo. Per il resto, oltre alle vicende Fiat e alle vicende all'Italia, parleremo appunto di banche. L'euro su dollaro, mi chiedete, è 1,06. La conferenza stampa in atto, dunque la conferenza stampa non è in atto, stiamo attendendo un comunicato di Fiat Chrysler. Qualcuno mi scrive, ma non è troppo perdere il 18% per 100.000 veicoli? Beh, è chiaro che si va a speculare, il titolo era anche cresciuto in questi giorni. Aspettiamo la nota della Fiat, ne parleremo al più tardi alle 18:05 minuti. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Visto che dicevamo di Alitalia, dove oggi il ministro allo sviluppo economico Carlo Calenda ha detto: non voglio su Alitalia, l'azienda è stata gestita male, non sono accettabili dichiarazioni di esuberi senza un piano industriale prima. E quindi prima si parla di un piano industriale, nessuna azienda si salva senza un piano industriale, poi si può parlare di esuberi. Per quello che riguarda Montezemolo ha detto non è il momento delle polemiche, poi lo ascolteremo, ma sulla vicenda Alitalia si concentrano i 100 secondi di Radio 24, solo 24 ore. Oggi a firma del vice direttore Alessandro Paterotti, ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Paterotti. Alitalia, atto quarto. Sì, perché in difetti siamo arrivati al quarto atto di questa tragedia della compagnia, ex compagnia di bandiera italiana, che continua, malgrado i ripetuti salvataggi, a rimanere a terra quantomeno nei conti. Costo del lavoro troppo alto, prezzi del carburante che oscillano di anno in anno ma non vengono quasi mai coperti da contratti derivati in grado di minimizzarne l'impatto sul proprio bilancio, e soprattutto una struttura dei costi, a partire da quello del lavoro, che non corrisponde più né alla realtà del mercato internazionale del trasporto aereo, nemmeno alle realtà del mercato del lavoro. Cercare di salvare l'Alitalia come è stato fatto in questi anni, minimizzando l'impatto sociale, è stato sicuramente un passo importante per un paese che vive il fenomeno della disoccupazione peggio degli altri, ma che purtroppo è soltanto un modo per rimandare i problemi alle altre gestioni. E questo di fatto è quanto accaduto. Nei vari salvataggi si è puntato soprattutto a salvaguardare la parte occupazionale, dal punto di vista sociale è un passo importante, ma allo stesso tempo, non avendo una rete di traffico, di hubs, di aerei in grado di sostenere un traffico globale su cui la resa è molto più elevata di quello nazionale o locale, all'Italia ritorna un po' da dove è partito. È un po' come un gioco dell'oca, i conti che ritornano a zero, le perdite, le difficoltà nelle relazioni industriali. Adesso si ripresenta il caso, sarà un nuovo salvataggio a carico del contribuente o sarà un salvataggio fatto tutto da privati? Ormai il nome privati viene utilizzato sempre di più, è stato tentato col Monte dei Paschi, con le banche, ora si riprova con Alitalia. In realtà qui non si tratta di andare in giro con il piattino, ma di mettersi in testa che senza un vero mercato dei capitali che sostituisca o il capitalismo relazionale o il sistema bancario, questo paese difficilmente potrà ripartire sul profilo industriale. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, andiamo avanti con le altre notizie che riguardano a livello internazionale da un punto di vista, diciamo, degli Stati Uniti. Continuano le varie dichiarazioni di Donald Trump. Tra l'altro oggi a Trump ha replicato Amazon, sottolineando che Amazon creerà 100.000 posti di lavoro negli Stati Uniti nei prossimi 18 mesi, portando il totale della sua forza lavoro americana a 280.000 dipendenti entro la metà del 2018. E poi per quello che riguarda invece l'economia di carattere europeo, faccio notare che oggi la Germania ha registrato nel 2016, dato di oggi però, un PIL cresciuto più delle attese, dell'1,9% contro l'1,7%, è la crescita più forte da 5 anni a questa parte. E il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble vuole usare il surplus di bilancio, che sono 6 miliardi e 200 milioni di euro, per ridurre il debito, invece che, come viene chiesto dall'Europa stessa, dai vertici G7, dalle banche centrali, invece che investire in Germania e anche innalzare le risorse previste per l'emergenza profughi. Lo ha fatto traparare il ministero a Berlino, ma di fronte a questa prospettiva gli alleati di governi socialdemocratici attaccano e chiedono di usare le risorse per aumentare gli investimenti in Germania, non per ridurre il debito. Allora, i modelli di Fiat, sì, non sono modelli italiani, citavo i due modelli da quello che capiamo che sono finiti nell'occhio del ciclone. È vero che Fiat all'inizio anno ha guadagnato oltre il 20%, sì, ed è ancora positiva, questo è anche sedute intere che Fiat è positiva, certo che un calo del 15%, adesso si è un po' ridotto il calo, che è arrivato al meno 18, siamo a meno 14,90, Exor perde il 10,80%, è un calo fortissimo, un tonfo fortissimo. Dicevo, al di là delle notizie che riguardano Fiat e che riguardano anche il mondo all'Italia, vorrei partire subito con l'assemblea degli azionisti di Unicredit e il via libera al piano di aumento da capitale da 13 miliardi, con due notizie ancora però che riguardano il mondo delle costruzioni, perché l'ANCE oggi nel suo osservatorio, l'ANCE è l'associazione che raggruppa i costruttori dell'edilizia italiani, ha fatto notare che le compravendite sono aumentate nel 2017 cresceranno ancora 20.000 più delle previsioni, e un aumento del 20% nei primi 9 mesi del 2016. Si dovrebbe arrivare quindi a 520.000 compravendite quest'anno, 550.000, o meglio 520.000 compravendite nel 2016 e 550.000 nel 2017. Sempre l'ANCE però sottolinea come il settore dell'edilizia resti l'unico ancora con il segno meno anche nel 2016, nei primi 9 mesi del 2016, e che è l'unico comparto che tuttora ha il segno meno anche dal punto di vista occupazionale, meno 5%. Dal 2008 si sono persi nell'edilizia 600.000 posti di lavoro. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Partiamo da Unicredit e anche l'operazione di UBI, l'ufficializzazione dell'operazione di UBI sulle tre banche. Allora, di Unicredit ha parlato oggi anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoa in audizione sul decreto salva risparmio. Ha detto: sono tranquillo, preoccupano altre situazioni fuori dall'Italia. E poi Padoan invece è andato sul sistema bancario in generale, dice che le banche sono a un punto di svolta positivo. Spero che i 20 miliardi, detto Padoan, messi a disposizione siano un'operazione one-off, e poi spero che non servano tutti i 20 miliardi. Ci sono segnali importanti che il sistema bancario sta voltando pagina, e non è da escludersi che si inneschi un circolo virtuoso, ossia consolidamento delle banche, pulizia dei bilanci e ripresa dei crediti alle imprese e della crescita. Ritengo che è possibile che ci si trovi di fronte a un punto di svolta positivo. Ci sono alcuni punti importanti. Unicredit sta per lanciare oggi un aumento di capitale importante. UBI si è dimostrata disponibile ad acquisire 3 delle 4 banche regionali. Banca Popolare di Milano e Banco Popolare hanno completato un'importante aggregazione. Naturalmente ci sarà poi la ricapitalizzazione precauzionale del Monte dei Paschi, quindi stiamo parlando di elementi positivi che tutti insieme, per la dimensione, oltre che il continuo buon andamento di importanti banche, a cominciare da Intesa, danno un segnale importante che il sistema bancario italiano sta voltando pagina. E quindi aggiungo che, visto l'andamento incoraggiante dell'economia con gli ultimi dati molto recenti, non è affatto da escludersi l'innesco di un circolo virtuoso tra consolidamento bancario, pulizia dei bilanci, ripresa della crescita e quindi un ritorno a condizioni quantomeno di normalità e di uscita definitiva dalla crisi. Allora, partiamo proprio da qui, da Unicredit e dall'aumento di capitale che è stato approvato a larghissima maggioranza, il 99,6% dei presenti, di chi ha votato, che erano più o meno 50% del capitale, 52% del capitale sociale. Marco Ferrando, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora Marco, a buon fine, il via libera dell'Assemblea. Quando partirà l'aumento e a che valori si collocherà il titolo? Ma oggi il amministratore delegato Mustier si è tenuto largo, ha detto che l'aumento verrà lanciato entro il primo trimestre, quindi entro fine marzo. In realtà tra un mese, quindi si ipotizza che il 13 febbraio l'operazione possa essere lanciata. 13 miliardi, 13 dicembre era stato presentato e 13 febbraio scaramanticamente potrebbe essere la data buona. Sul prezzo, essendo un'operazione gigantesca, 13 miliardi, che noi forse abbiamo già smaltito dal punto di vista, come dire, dell'immaginazione, però non dimentichiamo il più grande aumento di sempre, che non si sia mai visto Piazza Affari, uno dei più grandi di sempre per l'Europa, quindi parliamo veramente di un'operazione delle dimensioni mostre. Viste appunto queste dimensioni, lo sconto ovviamente non sarà basso. Ieri si ragionava tra gli analisti sul 30-40%, il che vorrebbe dire azioni offerte intorno a 1,2-1,3, che è circa la metà, considerando anche l'effettività. Ecco, il titolo però oggi ha perso l'1,60% a 2,58 euro. Insomma, di solito quando si avvia un aumento di capitale a quel livello, la borsa si ricolloca a quel livello di prezzo, no? Sì, esatto. Allora, diciamo che quando Mustier ha presentato il piano, siamo un mese fa, l'accoglienza in borsa era stata molto positiva. Se non ricordo male, il sì. giorno della presentazione aveva sicuramente guadagnato più del 10%. Da allora, progressivamente, c'è stato un calo. Oggi infatti siamo ai livelli di un mese fa, e di qui al prossimo mese, cioè quando partirà l'aumento, sicuramente è destinato a scendere ancora fisiologicamente. Diciamo che ci sono due elementi: da un lato è un fattore di prezzo, quindi un aumento che verrà messo sul mercato a un prezzo molto più basso di quello di oggi, ma dall'altro sembra esserci una certa positività sul piano che ci sta dietro. Oggi Mustier ha ribadito che uno degli obiettivi è quello di chiudere i conti con il passato, in particolare sui crediti malati, verranno infatti svalutati di 8 miliardi, e questo è un messaggio che al mercato piace, perché sappiamo che gli NPL sono il grande problema delle banche italiane e se qualcuno lo risolve il mercato è contento. Allora, per quello che riguarda sempre Unicredit, faccio notare appunto che il titolo, visto che me lo chiedevate, non si è mosso ancora, anzi bisogna capire poi cosa capiterà nei prossimi giorni, ma sull'aumento di capitale, Marco, mi sembra di aver capito che aderirà il primo azionista della banca. Ricordo che è Capital Research, poi il secondo azionista è Abar di Abu Dhabi, e vorrei capire anche su Abar se è arrivata qualche notizia. Poi ci sono le fondazioni di Verona, Torino e Carimonte, che potrebbero scendere dall'attuale 8-9% e dovrebbero però partecipare all'operazione. Chi, diciamo, i soci pesanti, a che punto siamo con le adesioni? Ma sì, come citavi tu, oggi in assemblea c'era un'ampia fetta di fondi, nel senso, cioè un'ampia fetta di capitale, perché eravamo oltre il 50% per un'assemblea di fatto scontata come risultato per di più a gennaio è un dato alto. Di questo 52%, il 33% se ricordo bene, faceva capo ai fondi che sono venuti in assemblea e hanno votato a favore dell'operazione, il che sembra di buon auspicio in vista dell'aumento. Capital Research, che come citavi è il primo azionista oggi, oltre il 6%, è entrato a settembre quando l'aumento era già nei fatti nell'aria perché era già arrivato Mustier e quindi è presumibile che segua l'aumento. Sugli arabi di Abar l'orientamento anche in questo caso sembra positivo, si è vociferato di un incontro inizio settimana tra la finanziaria appunto di Abu Dhabi e Luca di Montezemolo, che è il loro rappresentante in consiglio. C'è stato in effetti lunedì, però lo stesso Montezemolo oggi ha detto che non hanno ancora sciolto le riserve, però diciamo che per chi i soldi li ha conviene sottoscrivere, perché oggi Unicredit capitalizza circa 16 miliardi, se non partecipa a un aumento da 13 ti diluisci la tua quota, quindi perché aumentando il capitale la tua quota, pone che fosse il 5%, viene sicuramente diluita, visto che un aumento di capitale che vale una volta e mezza, no? Il valore di capitalizzazione, adesso anche un po' di più forse. Esatto. Da questo punto di vista, Marco, resta con noi però, perché dopo il meteo e la pubblicità vorrei anche un commento sull'operazione ampiamente scontata al prezzo di un euro con cui UbiBanca si è, ha fatto l'offerta, non è ancora chiusa l'offerta, ma è l'unica ad averla fatta, per le tre banche, tre delle quattro good bank di vendite celebri, e ascolteremo anche su questo l'intervento del ministro Padoan. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora, su Unicredit confermo, forse c'è stato un refuso in diretta. 16 miliardi è più o meno la capitalizzazione del titolo, 13 miliardi l'aumento di capitale, siamo a un aumento di capitale che vale quasi 70%, mal contato, del capitale sociale. In questo senso poi tu vai a diluire moltissimo la tua quota se non partecipi, visto che vengono messi 13 miliardi sui 16 attuali e quindi il capitale, adesso ragionando come se non si muovesse, ma insomma diventerebbe di sostanzialmente 29 miliardi di euro. Quindi se tu in questo momento hai, poniamo, l'1%, è chiaro che hai una diluzione molto molto forte, ci si riduce di oltre la metà, per cui questo è il ragionamento per spiegare perché la maggior parte degli azionisti di Unicredit saranno invogliati a partecipare all'aumento di capitale. Sulle fondazioni, Marco Ferrando, non è chiaro se aderiranno, diciamo, in tutta la loro quota una parte inferiore, quindi riducendo poi alla fine dell'aumento la percentuale di pertinenza? Sì, è così. Cari Verona, che era il primo socio tra le fondazioni, proprio ieri ha comunicato di avere tagliato dello 0,5% la sua partecipazione, che quindi oggi è intorno al 2,2, e di quel 2,2 probabilmente seguirà integralmente. Segue Torino, Fondazione Cassa Torino, che non è molto lontana, sembrerebbe perlomeno dalle prime discussioni in consiglio orientata a sottoscrivere integralmente. Forse le Emiliane, Carimonte, potrebbero diluirsi un po' come le altre, anche perché non dimentichiamo che da un anno e mezzo le fondazioni non possono indebitarsi per seguire gli aumenti delle proprie partecipate, questo è un vincolo non da poco. Allora, un euro per, mi chiedono molti ascoltatori, ma com'è possibile pagare un euro tre banche? Beh, insomma, perché in realtà ti compri tre banche, ma non ti costano solo un euro, spiegavano tutta, mi riferisco a UbiBanca. Tra l'altro, leggo una notizia appena battuta dalle agenzie, i consigli di amministrazione di Nuova Banca Etruria, Nuova Banca Marche e Nuova Carichieti hanno dato le deleghe agli amministratori delegati per procedere per la cessione degli NPL, dei non performing loans, quindi delle sofferenze, al fondo Atlante. Come mai un euro e che cosa si porta a casa UbiBanca? Ma non solo viene da dire che UBI ha speso solo un euro, ma ha ricevuto in dote anche 600 milioni di crediti fiscali, che sono praticamente 600 milioni di potenziale utile che la banca potrà contabilizzare nei prossimi 5 esercizi. Ma diciamo che oggi comprare una banca non piace a nessuno, quindi servono degli incentivi. UBI li ha ricevuti sotto questa forma, quindi da un lato un prezzo molto basso e dall'altro i crediti fiscali. Perché? Perché gli NPL invece vanno appunto a fondo esatto. Atlante, cioè lei rileverà queste tre delle quattro banche dopo che la cessione Prosoluto sarà venuta dei 2 miliardi e 200 milioni di sofferenze, no? Esattamente, quindi UBI integrerà le tre banche una volta che saranno definitivamente o quasi ripulite. Mm-hmm. Questo perché? Perché ovviamente UBI è una banca come le altre, quindi non è stata mai disposta a valutare questa operazione come un salvataggio, cioè un sacrificio, diciamo così. L'ha voluta confezionare sotto forma di operazione di mercato. In questo caso, da un lato, si fa carico comunque di, di tre banche che hanno costi fissi in termini di filiali, di dipendenti molto elevati, perché sono banche tradizionali che quindi hanno una raccolta significativa sul territorio, ma hanno anche tanti dipendenti e tante filiali, che per le banche sono costi da gestire, da smaltire, insomma, da riorganizzare, diciamo così. Quindi UBI si è fatto carico di questi voci di costo, diciamo così, ma al tempo stesso ha potuto contare su una pulizia da parte del sistema. Ecco, non dimentichiamo, Sebastiano, che tra il salvataggio di novembre del 2015, quando si era evitata al pelo la risoluzione delle quattro banche, e oggi di fatto il salvataggio è costato al sistema, quindi parliamo delle banche sane, più di 4 miliardi. Non è poco. E non è poco. L'altra andrà invece, mi riferisco chiaramente a Ferrara, andrà la Biper, anche se lì siamo... L'altra andrà la Biper in modalità analoga, prezzo simbolico e pulizia generale prima del passaggio. Allora, i titoli in borsa, tanto la borsa oggi la faccio io perché si chiama soprattutto Fiat, così è Chrysler. Fiat ha chiuso meno 16%, Exor meno 9,36%, tra l'altro su Fiat vi do un ulteriore aggiornamento perché... L'Agenzia per la Protezione Ambientale Americana, accusando Fiat Chrysler di violazione sul nome sulle emissioni, aggiunge: Fiat Chrysler ha schivato le regole ed è stata scoperta. Non comunicare l'esistenza di un software che influisce sulle emissioni auto è una seria violazione della legge. Tutte le case automobilistiche devono giocare secondo le stesse regole. Ancora indagano per verificare le autorità americane se il software montato sulle vetture che hanno violato le norme sulle emissioni sia un software truccato. Fiat Chrysler deve dimostrare, affermano le autorità, che il software è appropriato. Risposta: una nota della società Fiat Chrysler USA ritiene che i propri sistemi di controllo delle emissioni rispettino le normative applicabili e intende collaborare con la nuova amministrazione per presentare i propri argomenti e risolvere la questione in modo corretto ed equo, rassicurando l'autorità, l'Agenzia per la Protezione Ambientale Americana e i clienti di Fiat Chrysler US sul fatto che i veicoli diesel della società rispettano tutte le norme applicabili. Questo lo dico per Fiat. UbiBanca oggi ha invece il miglior titolo, più 9,12%. Un segnale, Marco, per concludere, che il mercato apprezza molto questa operazione. Sì, anche se non dimentichiamo che negli ultimi mesi, perché UBI è sulla partita da settembre, sì, da settembre. UBI ha pagato quasi quotidianamente questa avventura, oggi ha comunicato i target aggiornati proprio con l'offerta, così come è stata formulata. Gli analisti, il mercato hanno capito che a queste condizioni per UBI evidentemente più da guadagnare che da perdere, quindi hanno comprato. Tra l'altro faccio notare che i sindacati delle banche temono il 30% dei tagli dei posti di lavoro nelle tre good bank, e quindi più o meno 800-900 e 800-900 in Nuova Banca Marche. Ancora da questo punto di vista ci sono filiali doppione, sono dichiarazioni dei sindacati per quello che riguarda il rischio di riduzione degli sportelli. Per ora non c'è ancora nessuna notizia ufficiale, i sindacati attendono che il 18-19 gennaio il fondo di risoluzione approvi l'offerta e poi capire cosa gli dirà UbiBanca. In tutto sono 4.800 dipendenti delle tre banche, appunto. Se venisse tagliata la forza lavoro del 30% sarebbero 800-900 posti in meno entro il 2020. Grazie anche a Marco Ferrando. E a proposito delle quattro banche, i rimborsi automatici Li ha stimati il ministro Padoan in audizione sul decreto salva risparmio in circa 190 milioni i rimborsi automatici quando tutte le pratiche verranno espletate. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha gestito le richieste di rimborso forfettario a carico del Fondo di Solidarietà costituito tra le banche e grazie a questo meccanismo sono stati già rimborsati 37,5 milioni di euro a fronte della liquidazione di 2.854 pratiche. Al 3 gennaio sono pervenute complessivamente poco più di 14.000 pratiche e il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi stima che quando le pratiche saranno state tutte esaminate verranno rimborsati agli obbligazionisti circa 190 milioni di euro. Ricordo che le obbligazioni emesse dalle quattro banche regionali e distribuite a un pubblico di piccoli risparmiatori ammontano a circa 340 milioni e pertanto le obbligazioni oggetto della procedura forfettaria ammontano a più della metà del totale. Allora, ha parlato anche di Monte dei Paschi, il ministro dell'economia, ha detto il manager del Monte dei Paschi che pure hanno manifestato la disponibilità di mettere le deleghe, godono della fiducia del governo, si procederà alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione dopo aver fatto la ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato. E ancora il decreto salva risparmio prevede forme di compensazione per investitori al dettaglio nel caso del Monte dei Paschi. Riguardano gli strumenti emessi nel 2008 e valgono 2 miliardi 200 milioni di euro. Quanto al burden sharing, cioè il coinvolgimento del rafforzamento patrimoniale di alcune categorie di creditori subordinati, sarà necessario procedere alla conversione in azioni delle obbligazioni subordinate. È la legge stessa a prevedere, con riferimento a Banca Montepaschi di Siena, il valore da attribuire ai titoli coinvolti nelle misure di ripartizione degli oneri fra i creditori ai fini della determinazione del tasso di conversione. Il decreto legge 237 prevede una forma di compensazione per gli investitori al dettaglio, nel caso la banca riscontri rischi legali connessi al collocamento dei prodotti finanziari. Nel caso specifico di MPS, gli strumenti subordinati che sono interessati dalla compensazione sono quelli emessi nel 2008 per un ammontare di circa 2,2 miliardi di euro. Si tratta dell'unica emissione per la quale era obbligatoria la pubblicazione del prospetto. La compensazione permetterà di scambiare le obbligazioni subordinate con obbligazioni ordinarie, titoli coerenti con un profilo di rischio decisamente più contenuto. Allora, e poi una dichiarazione di Padoan che vi faccio ascoltare perché non possiamo non essere d'accordo, lo diciamo da mesi, anzi da anni, per quello che riguarda le responsabilità dei manager, dei top manager delle banche, Monte dei Paschi in primis, ma anche le quattro banche di cui parlavamo, ma anche Pop Vicenza e Veneto Banca. Nel caso Monte dei Paschi però come cittadini italiani abbiamo maggiore diritto perché diventeremo al 70% gli azionisti del Monte dei Paschi di Siena. Ha detto Padoan, il governo si auspica che la giustizia faccia rapidamente proprio corso e tutti coloro che hanno provocato danni alle collettività, alle comunità locali, risparmiatori e agli investitori vengano sanzionati. È utile riflettere sulla questione della informazione a beneficio dei risparmiatori nella scelta degli strumenti di investimento. Molti commentatori dimenticano di distinguere tra investimenti a rischio e risparmio sicuro. Gli azionisti o gli investitori in obbligazioni subordinate vengono equiparati a risparmiatori che comprano prodotti più sicuri o titoli di Stato. Chi ha investito con l'intento di ottenere un rendimento elevato dal proprio patrimonio si è assunto anche un rischio proporzionato. Chi ha scelto strumenti di risparmio con un profilo di rischio più basso ha ottenuto rendimenti più bassi. Chi prende un rischio elevato si pone nella condizione di registrare un'eventuale perdita. Se si verifica un evento sfavorevole, chi ha inseguito rendimenti elevati non può essere risarcito con il ricorso a risorse pubbliche. Tuttavia sappiamo che in alcuni casi le banche hanno venduto strumenti finanziari e prodotti di investimento a risparmiatori che per il loro profilo patrimoniale e reddituale non avrebbero dovuto assumere rischi legati a quei prodotti. In altri casi ci sono state forzature nei confronti della clientela, come l'abbinamento di finanziamenti all'acquisto di azioni. Si tratta di comportamenti impropri e in alcuni casi illeciti. Su questi la magistratura sta già conducendo inchieste e il governo auspica che la giustizia individui le responsabilità e sanzioni adeguatamente i colpevoli. Allora, sì, Padoan fa bene a ricordare che chi compra un'azione o un'obbligazione subordinata ha rendimenti più alti, delle volte, con le azioni non è detto, ma sicuramente si espone a un rischio più alto. Dopodiché lui stesso ha ricordato che in alcuni casi, ahimè, molto numerosi, aggiungo io, se parliamo di alcune di queste banche, venivano le azioni non erano trattabili, penso a Veneto e Banche Popolari di Vicenza, nel senso che non si trovava mai un compratore, non erano sul listino. B, venivano vincolati i prestiti, venivano vincolati l'acquisto di azioni. C, venivano collocate a clientela storica dicendo: ma tanto la banca è sicura, lei è una correntista da 20 anni, 30 anni, cosa vuole che salti la Vicenza, che salti la Veneto Banca? Allora, di fronte a questo, per dirla tutta, è vero, uno partecipa a capitale di rischio, se però diciamo, ha a che fare con un management che non ruba, che non trucca i conti, e con delle autorità di vigilanza che vigilano. E se no, allora questo ragionamento vale per qualunque investimento, per cui tutto vero se tutti fanno il loro lavoro. Allora io partecipo a capitale di rischio perché credo in quell'imprenditore, credo in quel manager bancario e quant'altro. Vabbè, andiamo sul traffico e poi all'Italia. Alle volte ritornano all'Italia. Focus Economia. Allora, all'Italia, il ministro Calenda oggi: non esiste che si parli di esuberi prima di parlare di piano industriale, l'azienda è stata gestita male e quindi prima c'è un piano industriale e poi si può, nessuna azienda si salva senza piano industriale, quindi prima il piano industriale e poi parliamo eventualmente di esuberi. Montezemolo, che con il ministro Calenda ha un grosso rapporto, nel senso che fu Montezemolo a portare Calenda anche come collaboratore, nessuna polemica, al contrario, dice Montezemolo, credo che sia un momento estremamente positivo, il governo ha fatto una riunione importante. In questo momento io non credo sia assolutamente fuori luogo fare qualunque tipo di polemica. Credo che Calenda abbia preso atto e non a torto di risultati non in linea con le aspettative. Detto questo, bisogna anche tener conto dello sforzo che stanno facendo gli azionisti, di quello che sta avvenendo col piano di business e nella vita è sempre meglio guardare avanti che non guardare indietro. Allora, e poi sempre al microfono la nostra Chiara Piselli, Montezemolo ha detto è imperativo un piano nelle prossime 3 settimane. Credo che chi ha gestito, credo che la cosa importante adesso è rendersi conto che dopo anni bisogna avere il coraggio di cambiare il modello di business di Alitalia, di focalizzare Alitalia sulle rotte extraeuropee che sono fondamentali per il business e per il turismo italiano, dove l'Alitalia sta già facendo molto bene, aprire rotte negli Stati Uniti, dove purtroppo un contratto vecchio con Air France non prevede di poter aprire nuove rotte, e di trovare una soluzione sul medio raggio, dove i costi di Alitalia, la struttura dei costi, non è competitiva verso tutte le aziende molto competitive di low cost. Questo è il tema vero. L'importante è tenere conto del grande impegno ancora degli azionisti, l'importante è anche di avere un rapporto di grande collaborazione con il governo, che, attenzione, anche il governo deve fare la sua parte sulla base poi di quello che sarà tra 3 settimane il piano, e di un confronto serio e costruttivo col sindacato per mettere una volta per tutte questa azienda con una struttura di costi competitiva, cosa che oggi anche un bambino di 2 anni vede che rispetto ai low cost non lo è. Allora, Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buonasera. Ciao. Una domanda semplicissima: l'Alitalia pre Etihad perdeva perché si era concentrata sulle rotte nazionali e ha subito la concorrenza, la dico un po' semplicistica, insomma, per capirci, la concorrenza dell'alta velocità ferroviaria. Arriva Etihad, ma anche un po' prima, e si decide di puntare sulla lunga distanza, quindi Abu Dhabi come hub, ma anche con collegamenti da Venezia, da Bologna, Seoul e vabbè. Allora, il problema adesso qual è? Sono le rotte americane per il nodo con Delta Airlines di un vecchio accordo di Air France, o il medio raggio? Cioè, se non funziona il corto raggio e tu punti sul lungo raggio, perché i conti vanno ancora non solo così male, ma male come prima? Il discorso di puntare sul lungo raggio quando è arrivata Etihad alla fine del 2014 è stato fatto, però non è stato attuato quel progetto, perché basta fare una piccola citazione: all'Italia per il lungo raggio oggi ha 24 aerei, e 2 anni fa quando è arrivata Etihad ne aveva 22, 2 in meno, quindi sono stati aggiunti 2 aerei. Certo, meglio aggiungerli che toglierli, ma 2 aerei sono molto poco, quindi quello che era il programma di incrementare il lungo raggio è stato attuato proprio molto poco, quindi questo innanzitutto, quindi questo possiamo dire sostanzialmente non è avvenuto. Poi mentre l'Italia ha aggiunto 2 aerei, le grandi compagnie europee che sono più grandi dell'Italia hanno aggiunto molti più aerei, quindi in realtà l'Italia ha ridotto rispetto agli altri la sua quota di offerta anche nel lungo raggio. Nel medio raggio si è accentuato il divario di costi tra l'Alitalia e la concorrenza, che è fatta soprattutto dalle compagnie low cost, Ryanair, EasyJet, Vueling, adesso da qualche anno c'è anche la Norwegian, e poi ce ne sono anche altre minori, ma molte altre, e addirittura le grandi compagnie, per esempio la stessa Lufthansa sta cercando, ha creato una società, prima era la Germanwings famigerata, poi ha avuto quell'incidente mortale, certo, e quindi adesso ha cambiato nome, Eurowings si chiama, però stanno cercando di creare una struttura, sta cercando di farlo anche Air France, deve fare un accordo sindacale con i piloti, non è facile, di crearsi delle strutture proprie low cost o comunque medio low cost, perché io credo che un vero low cost le compagnie tradizionali non riescano a farlo, bisogna creare una compagnia nuova per fare una vera low cost. Allora, però il problema sono i costi del personale, perché oggi Calenda ha detto prima voglio vedere un piano industriale e poi al massimo iniziamo a ragionare, non esiste parlare di esuberi senza un piano industriale. Solo Calenda è stato chiaro, forse la prima volta che anche a livello di un esponente di governo o comunque di una controparte non viene messo, puntato il dito direttamente sul costo del lavoro. Certamente se si prende una low cost i costi del personale di Alitalia possono essere, diciamo, più alti i costi fissi, meno i variabili, mentre le compagnie low cost pure hanno una componente più alta legata alle ore di volo per il personale navigante. Quindi certi risparmi all'Italia prevede anche di farli, però c'è tutto un insieme di costi nella struttura dell'Italia, che sono anche il costo con i fornitori, cioè costi che si possono ridurre soprattutto se l'azienda sta fallendo, non perché siano costi esagerati, ma perché il mercato richiede dei costi più bassi. Poi l'Italia ha comunque un problema di ricavi, cioè tutti i piani finora sono falliti, anche quest'ultimo di Etihad che prevedeva l'utile quest'anno, invece quest'anno si prevede una perdita di almeno 500 milioni di euro, è che non c'è stata la crescita dei ricavi, addirittura c'è stato un calo o una crescita più moderata, quindi bisogna cercare di trovare il modo di per aumentare i ricavi e non solo ridurre i costi. Nel ringraziare Gianni Dragoni e lasciare la linea a GR24, devo dare però un flash d'agenzia perché il rischio della sanzione per Fiat è fino a 4 miliardi, sarebbe fino a 4 miliardi e 630 milioni di dollari potrebbe costare, lo riporta poco fa la rete televisiva americana CNBC. Ne parliamo dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Focus Economia. ...18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di Fiat. Perché? Perché è successo di tutto a pochi minuti dalla chiusura di borsa, verso le 16:30 sono iniziate ad arrivare le indiscrezioni di una possibile multa da parte dell'autorità ambientale, si chiama l'Agenzia per la Protezione Ambientale Americana, EPA, e infatti poi è arrivata la notifica a Fiat Chrysler di una violazione del Clear Air Act, quindi la legge sull'aria pulita, e quindi norme sulle emissioni su circa 104.000 veicoli. Le emissioni riguarderebbero i veicoli Grand Cherokee e Dodge Ram, La Fiat Chrysler potrebbe incorrere in sanzioni civili, lo afferma l'EPA poco fa, ma è tutto da prendere con le pinze. La CNBC ha detto che potrebbe costare questa sanzione a Fiat fino a 4 miliardi e 630 milioni di dollari. Mi sembra una cifra molto alta, perché e tra l'altro c'è stata anche una risposta della Fiat, che dice Fiat Chrysler US ritiene che i propri sistemi di controllo delle emissioni rispettino le normative applicabili e la società intende collaborare con la nuova amministrazione per presentare i propri argomenti e risolvere la questione in modo corretto ed equo, rassicurando sia l'autorità ambientale, l'agenzia per la protezione ambientale americana, che i clienti di Fiat Chrysler US. Allora, Andrea Malande, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, per farci capire tutti, qui l'accusa è molto simile, se non identica, a quella su cui poi è stata coinvolta e sanzionata Volkswagen, cioè aver messo un... Dimmi. In realtà no, allora non è, e questo l'EPA lo scrive chiaramente, non è un cosiddetto defeat device. Il defeat device è un dispositivo che punta ad aggirare i test, cioè si attaccava l'antinquinamento delle Volkswagen quando c'era il test, appena finiva il test si staccava. Okay. Quello di Fiat è con grande probabilità, loro non lo spiegano in dettaglio, è semplicemente l'utilizzo di un software che gestisce le strategie di antinquinamento, dove per esempio, questo lo fa la Fiat, ma lo fanno anche altri costruttori in Europa, lo vedremo magari dopo, è una cosa molto diffusa. Io stacco il controllo delle emissioni al di sotto di una certa temperatura, che può essere di 15, 10, 5 gradi. Una temperatura che è comunque al di sopra di quelle che possono essere considerate temperature di utilizzo normale delle autovetture, pensiamo a quello, la temperatura di questi giorni nel nord Italia. E sono strategie che in Europa sono state finora ampiamente permesse e ampiamente tollerate. Se andiamo a vedere i test che hanno fatto proprio i tedeschi dopo il Dieselgate, volendo espiare, diciamo, un po' il fatto di aver tenuto gli occhi chiusi su Volkswagen, i tedeschi hanno fatto i test molto precisi, accurati, e strategie di questo tipo, che possono andare dallo staccare l'antinquinamento al di sotto di una certa temperatura allo staccarlo dopo un certo periodo di tempo, e lì c'è stata un po' una polemica, la polemica italo-tedesca dell'anno scorso era un po' con i tedeschi che accusavano la Fiat di staccare i dispositivi antinquinamento dopo un periodo di tempo che equivaleva a quello del test, quindi dicevano in sostanza è di fatto un defeat device. Diciamo che comunque in Europa, per sintetizzare, sono strategie che usano tutti, che fanno sì indubbiamente che le emissioni di ossidi di azoto dei motori diesel in media siano molto superiori ai limiti formali, è una cosa che tutti i governi europei hanno finora tollerato, quello tedesco in testa ovviamente, perché all'industria automobilistica più grossa è a quella che produce più motori diesel, ma anche quello francese e quello italiano. Negli Stati Uniti l'atteggiamento nei confronti del diesel è diverso e quindi le cose possono essere diverse, però hai detto tu giustamente all'inizio che questa è una violazione di tipo civile e amministrativo, non c'è niente di penale per ora, e quindi in effetti la stima che hai citato tu del possibile costo per Fiat Chrysler di penali di questo tipo è forse un po' elevata, se effettivamente si rimane sul piano della sanzione amministrativa. Anche perché ricordo che Volkswagen l'11 gennaio, cioè ieri, ha accettato il patteggiamento negli Stati Uniti da 4 miliardi e 300 milioni di dollari. Questo per ha ammesso le colpe, cospirazione, ostruzione della giustizia e false dichiarazioni. Per cui attenzione, insomma, le proporzioni sono diverse. Devo dire che anche Marchionne pochi istanti fa in conferenza stampa ha detto non c'è nulla in comune fra il caso Volkswagen e quello Fiat Chrysler. Dialoghiamo con la EPA da più di un anno, ha detto Marchionne. E quindi tu spiegavi bene, mentre nel caso Volkswagen si andavano ad alterare i valori delle emissioni nel test, quello che serve poi per dire la macchina emette questo tipo di CO2, e il software a quello serviva per alterare, taroccare il test, qui si tratterebbe di una cosa diversa e ampiamente tollerata in Europa, ossia che si stacchi, se ho ben capito Andrea, il dispositivo sotto una certa temperatura e dopo una certa percorrenza? Se io faccio delle ipotesi, le strategie sono diverse a seconda delle case automobilistiche, non sappiamo esattamente quale sia quella di Fiat, ma credo si tratti di un software del genere. E ovviamente tutti questi software in teoria devono essere dichiarati ed esplicitati, ed è questo la mancata dichiarazione di cui viene accusata Fiat Chrysler dall'EPA. Allora, a questo punto i prossimi passaggi quali saranno? Perché la vicenda Volkswagen è andata avanti per tanti mesi, ma ripeto, riguardava tra l'altro cinque top manager erano sono sotto accusa, per cui c'era anche un rilievo penale nella parte Volkswagen. Dunque, qua il passo fondamentale è un passo che c'è nel comunicato Fiat, che dice: noi siamo pronti a lavorare con la prossima amministrazione. Sappiamo tutti che tra circa una settimana c'è il cambio della guardia alla Casa Bianca con l'arrivo di Donald Trump. Che proprio ieri, per inciso, nella sua prima conferenza stampa aveva elogiato Fiat Chrysler, l'abbiamo fatto ascoltare ieri Trump, per l'impegno, per aver mantenuto l'impegno di investire 1 miliardo negli Stati Uniti. Certo, sappiamo tutti che appunto Trump ha un atteggiamento da un lato molto attivista sul tema del protezionismo, dell'importazione di auto dall'estero, dall'altro sicuramente meno attento ai problemi dell'inquinamento dell'ambiente di quanto potesse essere l'amministrazione Obama, ed è una cosa su cui evidentemente Fiat Chrysler, ma anche gli altri costruttori, contano, nel senso di sperano che l'amministrazione imponga dei limiti meno rigorosi. Sappiamo che Obama aveva un programma di aumentare progressivamente, di ridurre i limiti delle emissioni inquinanti e di imporre un aumento delle economie e dell'efficienza dei veicoli. Magari questo programma può essere un po' annacquato, il che permetterebbe alle aziende di investire meno. In questo contesto è chiaro che anche un eventuale cambio al vertice dell'agenzia, sappiamo che tutte queste agenzie sono in nomina politica, quindi un eventuale cambio di rotta politica dell'agenzia per l'ambiente non potrà che influenzare anche questo procedimento. Allora, staremo a vedere. Quello che è certo per ora è il contraccolpo di Fiat in borsa. Qualcuno mi ha scritto: è vero, però da inizio Fiat ha guadagnato negli ultime sedute, è vero, però oggi ha perso il 16-14%, trascinando con sé chiaramente anche Exor meno 9,36%. Staremo a vedere. Vedo molti messaggi, però stiamo ancora ipotizzando, Andrea, cioè tutto il ragionamento che tu hai fatto è di assoluto buon senso e realistico, però non abbiamo ancora nessuna conferma definitiva, no? No, conferma definitiva no, diciamo che ci sono le accuse dell'EPA. Fiat non entra nel dettaglio, Fiat semplicemente ha detto: noi abbiamo fornito all'EPA tutta la documentazione che ci ha richiesto su come funzionano i nostri motori. Io devo dire, a un'ora da quando è uscita la notizia, non sono ancora in grado di dire con precisione quali siano le norme americane, quindi se questi dispositivi software effettivamente violano le norme americane o no. Staremo a vedere. Nel frattempo la borsa l'abbiamo data anche prima, UbiBank più 9,12% e A2A più 1,35%, a chi me lo chiede. Grazie intanto ad Andrea Malan del Sole 24 Ore. Inutile dire qual è il peggior titolo: è Fiat oggi, e il secondo peggior titolo è Exor, il primo Bio2 più 21%, Sintesi più 13%, poi appunto UbiBank. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Traffico. Focus Economia. Oh, vorrei chiudere una puntata, insomma, non fatta solo di notizie negative, insomma, tra l'Italia, Fiat, per carità, il commento sull'aumento di capitale di Unicredit e la via libera all'operazione di acquisto per un euro da parte di UbiBanca di 3 delle 4 banche. Chiudiamo, come dicevo, che oggi le buone notizie sono due. La prima riguarda la produzione industriale nel mese di novembre, la seconda riguarda invece un settore che seguiamo spesso, quello del vitivinicolo, settore che, come dicevamo prima, non ha mai conosciuto crisi, nemmeno nel 2008, e ben venga ogni tanto, e che ha visto l'Italia conquistare la leadership mondiale nella produzione l'anno scorso, 50 milioni di ettolitri, export che ha toccato il valore massimo da sempre a 5 miliardi e 600 milioni di euro, più 3%, l'export del vino italiano è la prima voce nell'export agroalimentare. Tra l'altro abbiamo esportato il 5% in più anche in Francia, il 3% in più negli Stati Uniti, il 14% in più in Australia e anche l'1% in più in Spagna. In Francia il nostro spumante, prosecchi, le nostre bolle hanno fatto più 57% e ricordo che per ogni grappolo di uva raccolta si attivano in Italia ben 18 settori di lavoro, dalla trasformazione al commercio, dal vetro alla produzione di sughero, i trasporti, l'enoturismo, la cosmetica, la bioenergia, di tutto. Allora, che cosa è successo nel vino oggi? È successo che è entrato in vigore il testo unico del vino, per cui da un lato vengono salvaguardati come parte del patrimonio ambientale i prodotti della vite e i territori vinicoli, e dall'altro, cosa che mi interessa ancora di più, con il testo unico dovrebbe essere rivoluzionato tutto il mondo delle incombenze burocratiche che valgono in questo momento, si fa per dire valgono, che costano alle imprese 100 giornate di lavoro e 4.000 pagine di normativa del settore che ogni impresa deve, diciamo, leggere e poi deve, a cui deve rispondere. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento Ottavio Caggiano, che è direttore generale di Federvini. Buonasera. Buonasera a tutti. E grazie anche a Giancarlo Neri, produttore di Amarone, di Prosecco, e nonché anche grande esportatore, che ha fatto bere col suo vino, devo dire, tutti i presidenti americani degli ultimi anni, e anche Trump, per vie indirette. Buonasera anche a lei, Neri. Buonasera. Allora, Caggiano, perché è una buona notizia, oltre che il riconoscimento, diciamo, del patrimonio ambientale sui prodotti della vite e territori vinicoli, la parte che riguarda la burocrazia delle aziende vitivinicole? È una buona notizia per due ragioni. Innanzitutto mi permetto solo una piccola precisazione. Prego. E non è solo patrimonio ambientale, è patrimonio culturale. È qualcosa, certo, di cui siamo orgogliosi, soddisfatti e anche grati al Parlamento che l'ha approvata questa indicazione. Essere riconosciuti come patrimonio culturale è un valore importantissimo per il settore, e il settore, devo dire, che in questi anni ha dimostrato in tutti i modi, ha cercato di dimostrare di essere all'altezza di questo riconoscimento. Sulla burocrazia è il primo passo. Magari potessimo brindare da stasera alla scomparsa delle 100 ore o alla loro riduzione a 20 ore. No, però sicuramente nel testo unico ci sono le premesse per ridurre. Un primo passo è anche attraverso un maggior uso dell'informatica e quindi di tutto quello che sono i rapporti telematizzati con l'amministrazione. Altre invece sono state vere e proprie cancellazioni di tradizioni burocratiche che venivano nel tempo. 4.000 pagine di normativa. Se lei dovesse darmi un titolo, perché si arriverà, o meno l'obiettivo è quello, al dimezzamento, il 50% in meno del tempo, qual è, diciamo, l'elemento principale che va a portare a questo dimezzamento? L'eccesso di comunicazione, di duplicazione di comunicazioni alle tantissime autorità che intervengono nel ciclo produttivo, perché ha citato i 18 settori che si mettono in pista. Ma contemporaneamente l'attività di produzione del vino oggi mette in pista come minimo anche 12 autorità di controllo nazionale. Ecco, c'è il controllo unico, c'è un sistema di scambio di informazioni, c'è tutto un lavoro preparatorio che fa sì che prima di andare a effettuare i controlli attraverso la rete telematica l'azienda può già essere in parte verificata. Aneri, quando uno come lei vive, come la maggior parte dei produttori di vino vivono di esportazioni, ormai ci sono case e aziende che hanno l'80, il 78, l'85, il 90% di export, lo raccontiamo ogni anno dal Vinitaly, che cosa significa la parte burocratica? Perché voi vi occupate del mercato, delle tendenze, di dove posizionare il vostro vino, la rete di distribuzione, ristoranti, piuttosto che wine bar o wine shop, però poi la parte burocratica quanto vi pesa? La parte burocratica ti pesa perché ti fa perdere tempo per delle cose che si possono eliminare. E sono convinto che il governo, quando viene incontro ai produttori, deve pensare che lo fa nell'interesse dello Stato. Io le dico che queste nuove regole aiuteranno tantissimo le piccole aziende. Io faccio parte della nicchia delle piccole aziende che vendono prodotti di alto livello. Se invece di avere una persona che mi cura a tempo pieno questa parte burocratica, io quella persona lì la posso mandare in giro per dire a produrre, a vendere o a fare altre cose, nella mia azienda i costi diminuiscono e nello stesso tempo ho un'opportunità di approfittare al 100% della mia forza lavoro. E quindi lei dice che in proporzione, come avviene anche in altri settori, incide molto di più per chi ha pochi dipendenti, cioè per chi ha dimensioni più piccole e limitate. Da questo punto di vista, però, è pensabile un ragionamento per cui la persona che si occupava di burocrazia mi va direttamente, non so, nella forza vendite o nel marketing? No, invece di assumere uno che ti cura la parte burocratica, cerchi uno che ti possa seguire un altro settore e il costo ce l'hai diminuito del 100%, perché segui un settore che magari hai trascurato perché non hai la forza economica di prendere una persona in più. Da questo punto di vista, io citavo i dati sulla produzione del 2016, però Caggiano e poi Aneri, sul fronte del valore siamo ancora ben distanti dalla Francia. Che cosa ci serve? Adesso ammettiamo che si arrivi a questo 50% in meno che prevede il testo unico come obiettivo di burocrazia. Che cosa devono fare invece le imprese vitivinicole, al di là del ruolo dello Stato, per aumentare il valore? Perché noi esportiamo tanto, produciamo tanto, ma con meno valore pro capite rispetto alla Francia. Stiamo già facendo molto, perché comunque il valore medio è in crescita rispetto agli anni precedenti. È vero che siamo distanti dalla Francia, ma comunque abbiamo già migliorato. Dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo continuare nella valorizzazione delle produzioni, dobbiamo continuare nella valorizzazione del messaggio che arriva al consumatore, per fare in modo che il consumatore non si senta solo di spendere quando si trova davanti a un'etichetta francese e ritenga che invece per le etichette non francesi si debba spendere la metà. Questo è un discorso più complesso, è un discorso più lungo, però ripeto, in questi anni il valore medio delle esportazioni italiane è aumentato, dobbiamo essere continui e convinti che questo è il nostro percorso. In una battuta, molti mi chiedono, ma non è che ridurre la burocrazia riduce la sicurezza sul vino? No, perché cioè, i controlli restano uguali. Aumentati. I controlli restano uguali e sono aumentati. Primo perché sono state messe in rete le amministrazioni che controllano. Fino ad oggi ognuno veniva e nessuno parlava con le altre, adesso sono in rete, non è che scompaiono, aumentano ma sono razionalizzati e naturalmente scompare la figura dell'amanuense, quello sì, perché noi eravamo obbligati a riempire tonnellate di carte. Non è male. Aneri, che cosa serve per aumentare il valore del nostro allora, vino? Per aumentare il valore serve che lo Stato si renda conto che ci sono degli ambasciatori italiani importantissimi nel mondo che sono i ristoratori. E oltre a fare un progetto che elimina la burocrazia, dovrebbero fare un progetto che dà degli incentivi a questi signori che abbiamo nel mondo e che portano i prodotti italiani di alto livello, li fanno conoscere e spiegano le caratteristiche di questi prodotti. Questi sono ambasciatori che a volte vengono trascurati. Io farei un progetto esclusivamente per la ristorazione italiana che abbiamo in giro per il mondo, che è la numero uno. Si ricordi che il ristorante francese è in difficoltà, il ristorante italiano sta attraversando un momento eccezionale. Quindi lavorare anche sulla rete di promozione più forte che abbiamo. Noi non abbiamo le grandi catene come la Francia, no? Le grandi catene della distribuzione. Abbiamo in questo momento un grosso vantaggio con il grande successo che ha in tutto il mondo anglosassone, ma non solo. Penso anche all'Asia, alla ristorazione italiana, sfruttiamo e diamo anche, diciamo, non dico dei finanziamenti, ma delle agevolazioni sì, a chi di fatto fa un lavoro di promozione enorme e molto spesso insostituibile. Grazie a Ottavio Caggiano, direttore generale di Federvini, grazie anche a Giancarlo Neri, produttore appunto di vini. Questa puntata termina qua, domani vedremo altri aggiornamenti, immagino anche sulla vicenda Fiat. Per ora da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24. Libera la voglia di fare.